Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È decisamente più tardi del previsto e ho assolutamente bisogno di dormire. La temperatura esterna è sempre più rigida. Alzo il riscaldamento della piccola auto, ma quando sento odore di bruciato lo spengo. Su questa strada non c'è anima viva. Se mi succedesse qualcosa o se dovessi fermarmi, non avrei nessuno a cui chiedere aiuto. Sono Linda, ho 36 anni e ho un compagno. Lavoro a Roma per un'azienda multinazionale che produce e installa aerogeneratori eolici, i mulini a vento. Non è una giornata qualunque, questo lunedì 12 marzo del 2012. Sono le 16:07 e siamo, grosso modo, abbiamo fatto un calcolo sommario insieme a Tiziano proprio poco prima di entrare, ci abbiamo messo quei 15 minuti che ci impieghiamo ogni volta che dobbiamo fare due calcoli e abbiamo capito che siamo più o meno al giro di boh di questo programma, o meglio, al giro di boh di questa stagione. Siamo grosso modo a metà, anche se è stato un calcolo sommario perché non abbiamo ancora capito fino a quando andiamo avanti, se fino a fine giugno, fino a fine luglio, ma tant'è, siamo arrivati a un punto in cui credo sia arrivato il momento di ripetere che cosa facciamo. Magari qualcuno ha acceso la radio in questo momento perché è in macchina, perché è in panne in macchina, o perché è in coda e perché ha casini, ha problemi con il viaggio che sta conducendo, e qui cadiamo esattamente al tema di oggi, ma facciamo un passo indietro. Magari qualcuno semplicemente sta ascoltando per la prima volta questo programma, e questo programma, in poche parole, è un... è un programma in cui si racconta ogni giorno una storia diversa. Le storie diverse le inviano le persone che ascoltano questo programma, che in una pagina decidono di scegliere un episodio della propria vita, un episodio che meglio racconti di altri qualche cosa di loro, lo inviano a voi siete qui @radio24.it. noi lo prendiamo, lo facciamo nostro, dove per lo facciamo nostro vuol dire che se è da accorciare lo accorciamo, se è da allungare lo allunghiamo, se dobbiamo renderlo un pochettino più radiofonico lo facciamo, ci aggiungiamo un pezzo di solito della mia vita o di qualche esperienza comune e lo raccontiamo in una puntata dedicata. È quello che facciamo oggi, è quello che facciamo dal 5 di settembre del 2011, è quello che faremo da qui per il resto della nostra vita. Via, dai, ho deciso, per il resto della nostra vita solo questo, o per i prossimi 4 mesi quantomeno. 349-238-6666 per gli sms, voi siete qui @radio24.it per mandare le vostre storie, e poi c'è un profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia Io Sono Qui, dove più o meno carichiamo le cose che raccontiamo, dove le persone possono commentare e raccontarci delle cose in più rispetto a quelle che raccontiamo. E qui arriviamo oggi, arriviamo al 12 di marzo, arriviamo alle 4:10 del pomeriggio. È la storia di Linda oggi, Linda che ha scritto, come molti, qualche tempo fa, abbiamo avuto giusto il modo e tempo di leggere la sua storia, e la sua storia parla di qualcosa che capita a chi viaggia tanto o anche chi viaggia poco e ha la sfortuna di incappare in inconvenienti di viaggio. Per cui, che sia un inconveniente che vi è capitato per diletto, cioè per piacere, perché eravate in vacanza oppure no, oppure per lavoro, oppure perché siete dei pendolari, ve ne succedono di tutti i colori, oggi si parla di quegli inconvenienti, ho detto male, di quei casini che vi succedono durante un viaggio, per cui aerei che non partono, traghetti che non decollano, che non partono neanche quelli, treni che sono bloccati sulla via, auto in panne, con tutto fuori che sembra avverso, nevica, piove, è buio, voi siete da soli, vi si scarica il cellulare, non avete il GPS, cose di questo tipo. Questa puntata è dedicata solo a quello. 349-238-6666. Simona, la sto vivendo oggi. Viaggio da pendolare in piedi, in treno, super affollato, in ritardo di un quarto d'ora. Odio tutti. Magari c'è qualcuno che ascolta la radio in treno, no? C'è qualcuno che l'ascolta con le cuffiette, ma se magari non ascolta il podcast è più facile. E se l'ascolta in treno, in questo momento è in treno e c'è qualche inconveniente, abbiamo un numero di telefono per chiamare che è 800240024. Ma anche per quelli che... Sì, giustamente... un inconveniente un po' più grosso dei 15 minuti di ritardo, effettivamente questo non è male, Tiziano, da segnalare. Ad esempio, Clementina, per tornare a casa da Timbuktu a Roma, ok? 4 giorni, l'aereo era in panne da qualche parte nel deserto, neppure Air Mali sapeva dov'era. Mi piace perché dice Air Mali come se fosse, che so io, alla British Airways, con tutto rispetto per Air Mali, che è la compagnia, no, di bandiera del Mali. Però non è stato sgradevole stare 4 giorni in più a Timbuktu, perché quell'anno arrivò in quei giorni la Parigi-Dakar. L'unico problema era non avere nessun tipo di collegamento con il resto del mondo. 800240024, Eros, era il 92, il ritorno da una corsa ciclistica, con i 3 compagni di squadra Perdo il treno da Reggio Calabria a Milano. Eravamo al bar e il treno è partito. Ragazzi, non è un conveniente di viaggio, siete degli imbecilli. Diamo il fondo alle poche risorse disponibili. Prendiamo 4 biglietti per il treno successivo super affollato, ma non abbiamo né acqua né cibo. E poi dovevamo pensare a come fare da Milano a casa. È stata una bella avventura, ma io sono qui. Bene, e questo mi rincuora. Qualsiasi inconveniente, ripeto, che sia stato un viaggio di lavoro, che sia stato un viaggio di piacere, e qualsiasi cosa vi sia successa che ha prolungato o in qualche modo rovinato il vostro viaggio, 800240024, anche telefonate oggi, oppure SMS 349 238 6666. Tutto partiva però da qui, dalla storia di Linda e dal suo viaggio in Macedonia. Un bel giorno il mio capo mi dice che dobbiamo partecipare a una gara per il primo parco eolico della Repubblica della Macedonia. Ovviamente accetto entusiasta. Tra le prime operazioni da fare c'è la partecipazione ad un road site survey. Dobbiamo verificare lo stato delle strade e del sito ai fini dell'accesso degli aerogeneratori fino al cantiere. L'appuntamento è alle 7 del mattino di un lunedì di novembre presso la sede del cliente a Skopje, capitale della Macedonia. Tutti i partecipanti alla gara devono registrarsi e poi è prevista la partenza per il futuro sito eolico. Io prenoto volo e hotel e siccome sono di ritorno da un'altra trasferta chiedo aiuto a due colleghe per la prenotazione dell'auto. È una cosa molto importante. Viaggio la domenica pomeriggio, atterro alle 23 all'aeroporto di Salonicco e ho necessità di trovare una buona auto e un navigatore GPS per raggiungere l'albergo a Skopje, 250 km più a nord. Arriva il giorno della trasferta, il volo è puntualissimo, anzi, è addirittura in anticipo di qualche minuto. Appena arrivata mi dirigo verso l'autonoleggio, la chiusura è alle 23, però dicono che se hanno una prenotazione aspettano sempre. Mi sento abbastanza sveglia e pimpante per affrontare il viaggio al volante. Passando per la Grecia, la frontiera è quasi tutta la Macedonia. Avvicinandomi ai banchi degli autonoleggi, noto che il mio è chiuso. Com'è possibile? Sono in Grecia, di domenica sera per un'importante gara per la mia azienda e non è stata prenotata l'auto. Gli autonoleggi sono tutti chiusi tranne uno. Quasi senza speranza, chiedo se per caso hanno un'auto. Ne rimane una. Un modello molto piccolo, decisamente non adatto a lunghi viaggi. Ma io non ho scelta, la gara non può saltare. Nel frattempo ho già perso una buona mezz'ora. La Repubblica della Macedonia è uno stato che si sta sviluppando in questi anni e per avvicinarsi al mondo occidentale vuole installare il primo parco eolico. Chiaramente la mia azienda è molto interessata a partecipare a una commessa di questo tipo, cioè il primo parco eolico di uno stato dei Balcani, e quindi siamo andati per partecipare e per tentare di vincerla questa gara. Mi metto in viaggio e dopo un centinaio di chilometri arrivo alla dogana. Grecia e Repubblica di Macedonia hanno ancora delle questioni in sospeso. Il passaggio non è dei più facili. Mi fermo prima alla dogana greca. L'ufficiale guarda l'auto con targa greca, guarda il mio documento italiano, poi mi dice con fare ammiccante: si va al casinò, eh? Io ringrazio e me ne vado. Non sapevo che passata la frontiera ci sono effettivamente una marea di casinò. Poi mi devo fermare alla frontiera macedone. Controllo dei documenti dell'auto e controllo del mio documento d'identità. Il militare digita qualcosa sul computer e con stupore noto che sullo schermo compaiono due foto mie. Oddio, sono schedata in Macedonia. Rimango sbalordita, cerco di fare qualche complessa supposizione sul perché alla frontiera abbiano due foto mie. Forse me le hanno fatte al mio arrivo e alla mia partenza un anno fa alla frontiera dell'aeroporto di Skopje. Per fortuna però l'ufficiale non fa alcun commento. Tenta di farmi capire col suo pessimo inglese che siamo nati entrambi nello stesso anno, nel 76. In tutto perdo un'altra mezz'ora. Passata la frontiera, le mappe del GPS greco non coprono il territorio dello stato vicino, ma poco male. Ho con me lo smartphone e mi guiderà. Sono un po' scomoda, con la mano sinistra guido, con la destra reggo il cellulare e con lo sguardo confronto continuamente strada e GPS del telefono. Per fortuna c'è la luna piena che illumina la strada. Riesco ad apprezzare il bellissimo paesaggio che ho intorno, anche se a tratti mi fa un po' paura. Continuo a guidare, ora l'obiettivo è il letto dell'albergo. È decisamente più tardi del previsto e ho assolutamente bisogno di dormire. La temperatura esterna è sempre più rigida, alzo il riscaldamento dell'auto, ma quando sento odore di bruciato lo spengo. Su questa strada non c'è anima viva, se mi succedesse qualcosa o se dovessi fermarmi non avrei nessuno a cui chiedere aiuto. Cerco di non pensarci. Improvvisamente, dal nulla, escono due segnalatori luminosi che mi indicano di fermarmi. Due poliziotti. Si avvicinano e mi spiegano il problema. Ho superato di ben 36 km all'ora il limite di velocità. In quel tratto c'erano i 60 e io facevo i 96. È tutto assurdo. Non c'era nulla prima, niente case, auto, nemmeno animali, per chilometri e chilometri. Io mi scuso, ammetto le mie colpe e chiedo perdono. Il poliziotto parte con una lunga filippica sul rispetto dei limiti per la propria e per l'altrui sicurezza. Mi dice che mi dovrà fare una multa molto grossa e io dovrò andare in banca per pagarla. Poi d'un tratto mi chiede se sono sola. Io rispondo sì e avverto una strana sensazione che non mi piace per niente. Con questa storia ti vogliamo fare una multa, devi pagare in banca una cifra molto alta, nonostante dici sì, ok, va bene, avete ragione, voglio pagare, invece di andare, non mi mollavano. L'ufficiale mi chiede che lavoro faccio e dove sto andando così di fretta nella notte. Senza perdermi d'animo, gli spiego che devo andare a Skopje, perché il giorno dopo devo incontrare alle 7 del mattino l'ente pubblico per la generazione di energia elettrica. E mentre lo dico gli mostro la dispensa dei documenti di gara con il nome del cliente e il nome della società. Ho con me anche la lettera che convoca i partecipanti alla gara lunedì mattina. Il poliziotto, improvvisamente, cambia approccio. Mi dice che rispetta il mio lavoro e che comprende perché correvo. Mi dice che per questa volta mi dà soltanto un warning, ma la prossima volta ci sarà la multa. Mi saluta, mi invita a rimettermi alla guida. Lo ringrazio, non esito un momento e sono di nuovo in strada, dopo aver perso un'altra mezz'ora. Mentre faccio l'ultimo tratto di strada, penso a tutto quello che mi è successo. Piano piano, due rivoli di lacrime cominciano a scendermi sulle guance. Arrivo in hotel alle 3 di notte, faccio una doccia calda e finalmente mi butto nel letto, dove mi addormento in un millisecondo. Chiacchierato un po' col figlio di amici. Lui ha 16 anni, penso si possa definire senza timore di smentita un adolescente leggermente tamarro. Ha un taglio di capelli vergognoso, ascolta della musica veramente, ma veramente brutta, si veste molto male e parla in maniera a me totalmente incomprensibile. Ok, lo so, io sono un vecchio che faccio sti commenti su un ragazzino di 16 anni, però bisogna tener conto due importanti elementi. Io, il primo, sono ben più vicino ai 40 che ai 20. Lui è affetto da quella brutta malattia che è l'adolescenza. La cosa però che mi colpisce di più è il suo vocabolario. Ogni tanto usa delle espressioni che io faccio finta di capire per non dare l'impressione di essere proprio da buttare via, però spesso dopo sono costretto a gettare la maschera e a chiedergli delle spiegazioni. Che è una cosa anche molto imbarazzante. Anche perché non avete idea di che occhiate mi dia lui quando non capisco cosa mi sta dicendo. Vabbè, una delle mie nuove espressioni preferite che ho assorbito parlando con lui è questo termine, è ingarellarsi. Tento di spiegarla nel modo più semplice possibile. Ci si ingarella in motorino con gli amici, ad esempio, per vedere chi è più veloce. Oppure, in maniera più astratta, ci si ingarella con qualcuno per vedere chi ha ragione o per vedere chi è il più furbo, il più forte, insomma, chi è più in qualcosa. Ecco, mi è venuto in mente questo termine leggendo il racconto di Linda. Io non vorrei ingarellarmi con lei, a proposito di storie e di inconvenienti di viaggio. Ma se vogliamo veramente fare a chi ha passato la notte più brutta e lunga dell'universo durante un viaggio, mi sa che vinco io. Sto per atterrare a Rio de Janeiro. Sono da solo. I miei amici mi raggiungeranno domani nel pomeriggio. Loro hanno prenotato molto tempo prima di me un altro aereo. Io ho scelto all'ultimo di andare in Brasile e questo è l'unico volo che ho trovato. Sapendo anche relativamente poco, l'unico problema è che però volo da solo e che mi devo fare una giornata intera senza nessuno a Rio. Durante il volo ho fatto l'erroraccio di rileggere gran parte della guida. Il risultato è che ora sono terrorizzato. Il Brasile è dipinto come uno dei posti più pericolosi del pianeta e ovviamente Rio de Janeiro come l'epicentro di questo inferno. Il mio simpatico volo economico mi porta alle 3 del mattino all'aeroporto Antonio Carlos Jobim. Appena mi impossesso del mio zainone, comincio a guardarmi in giro terrorizzato.

Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. E ci ha mandato una foto, Linda, in cui di fatto non si vede, perché è una foto scattata allo specchio con una macchina fotografica che ha un flash attivo. Quindi si vedono giusto un po' i suoi capelli, una parte degli occhi e una parte della camicia che ha lungo una spalla. C'è un alone di mistero, quindi adesso facciamo che glielo chiedo direttamente a lei. E non so se c'è al telefono. È già al telefono, Linda? Fantastico. Pronto, Linda? Sì, buonasera. Ciao, come stai? Stavo scherzando, non hai colto. Ti ho sentita male, scusami. No. Stavo salutando Barisoni. Ah, ok, ti ringrazio. Non sei tu che mi mandi i messaggi? No, non sono io. Guarda, però ormai lui sa che c'è stato di fatto quasi uno scambio di persona tra me e lui, infatti a breve lui verrà in onda alle 16, io in onda alle 17. Ma torniamo a noi, Linda. Complimenti per la foto, che è fatta di proposito, immagino. Ti trovi al lavoro, Linda? Perché ti sento col tono di voce tipo non mi deve sentire nessuno. Esattamente. Perché sei in uno sgabuzzino? Sei in bagno? Sala riunioni, sì. Sei nella sala riunioni. Allora, ricordiamo che cosa fai esattamente di lavoro tu. Vendo aerogeneratori eolici. Scusami? Vendo aerogeneratori eolici. Ok, quindi che cosa si studia per vendere aerogeneratori eolici? Me lo stai chiedendo? No, ingegneria. Ok, allora quindi tu sei un ingegnere che vende quelle pale, i mulini a vento, come li spiegavi tu. Quindi scusami, esattamente un parco eolico è semplicemente un insieme di mulini a vento? Esatto, più una sottostazione che mette energia in rete. Ma scusami, quanto vento ci vuole per far muovere quelle pale? 3 metri al secondo minimo. Quindi tipo 6 nodi, una roba del genere? 6-7 nodi di vento, che sono che è una brezza più o meno, cioè in teoria in un posto di mare, ad esempio, questo vento c'è sempre. Esatto. Senti, invece lì in Macedonia l'abbiamo fatto o no? L'abbiamo vinta o no sta gara? Bella domanda, è stato tutto congelato per irregolarità. Per irregolarità di chi, scusa? Per irregolarità nelle procedure. Diciamo che i Balcani sono famosi per problematiche, tipo trasparenza nelle procedure, mazzette, cose così, e quindi è stato tutto congelato. Senti, dimmi qual è il posto più assurdo in cui avete creato un parco eolico, se posto, ha senso di parlare di posto assurdo. Va, dunque io lavoro per la sede italiana, quindi la sede italiana ha la Grecia e i Balcani sotto di sé, quindi Italia, tu quindi quello con quei posti lì tu frequenti, cioè sì, Grecia e Balcani? Sì, non faccio altre trasferte più lontano. Cioè quindi sei solita a frequentare i Balcani? No, solita no, è stata una novità per questa gara qui, questa della Macedonia. Senti, ma l'eolico è una bolla o ha senso? Avrebbe senso, però non tutti lo vogliono far funzionare. Qua ci vorrebbe Maurizio Meris, guarda, lo so, purtroppo ci vorrebbe Maurizio Meris per parlare con te, che ti terrebbe qui mezz'ora, però non abbiamo il tempo per farlo. Io ti ringrazio, Linda, per il tuo racconto e per le chiacchiere, anche se ti sentivo un pochettino contrita nel raccontare le cose. Va bene, grazie a te, grazie a Margherita. Grazie Margherita sempre. Ciao Linda, grazie, buona giornata. Ciao. Essere bloccati per un controllo documenti in Transnistria, sedicente ed inesistente repubblica socialista separatista tra la Moldova e l'Ucraina, senza sapere una parola di russo, e cercare di far capire a dei doganieri con la stella rossa sul berretto che il cambio non è proprio esattamente un rublo transnistriano uguale 10 euro. Vale? Beh, guarda, se non vale questa, direi che non vale proprio nessuna. 800240024 oppure 349-238-6666, però andiamo al telefono, dai. Andiamo a Francesco da Roma, sperando che Francesco abbia più voglia di chiacchierare di Linda, direi. Pronto, Francesco? Sì, eccomi, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Dove ti trovi adesso? Non dirmi che sei al lavoro e non puoi parlare. No, sono per strada, sto camminando per strada. E come ascoltavi la radio, scusami? Fino a 5 minuti fa ero in macchina. Ah, ok. Perché che lavoro fai, Francesco? Ma io sono un libero professionista, ex libero professionista, per il momento non faccio più nulla. Ma perché te lo puoi permettere o perché è crollato? Sì, perché me lo posso permettere, perché ho lavorato, diciamo, negli anni a venire in maniera che potessi crearmi delle piccole rendite. No, adesso mi devi dire cosa facevi però, Francesco, scusami, perché siamo tutti troppo curiosi. Sono agente immobiliare. Ma quindi l'agente immobiliare funziona? Beh, diciamo ha funzionato, poi non ha più funzionato e quindi ho deciso di smettere. Ok, ma hai in mente di fare altro o semplicemente di vendere i tuoi cravattoni a delle persone che abbiano voglia di prendere il testimone e fare il tuo mestiere? No, sì, c'ho in mente adesso di fare qualcosa di più divertente, che mi appaga di più. Dai, dimmi cosa, poi giuro che non ti faccio più domande personali, dimmi solo cosa e poi andiamo al racconto. Beh, diciamo nel settore dell'alimentazione. Ma Francesco, scusami, ma c'hai dell'intrallazzi da qualche parte? Perché hai il tono troppo dimesso di chi dice, ma non ti posso raccontare, guarda, non farmi dire, aiutami a dirmi. No, sono intrallazzi, c'ho una, praticamente sarebbe mia cognata che sta negli Stati Uniti e quindi lei già lì ha messo su un'attività, aiutata a farla diventare un po' meglio di quello che era prima. Benissimo, Francesco, scusami la curiosità, però era proprio il tuo tono che mi incuriosiva, non era nient'altro, era questo, ma sì, ho fatto cose. Veniamo al 93. Non parlo volentieri. Lo sentivo, e a me è più forte di me, quando uno non parla volentieri lo farei parlare per un'ora. No, vabbè, però per Radio 24 ne parlo volentieri. Questo ed altro, poi magari ti passo Barisoni. Allora, era il 93, giusto? O 90... sì, o 92 o 93, 93. Mi ricordo molto bene. Comunque era una settimana prima che iniziassero, diciamo, i colloqui di pace tra palestinesi e israeliani. E cosa succedeva? Niente, avevo deciso di farmi un viaggio lì, sono partito con una mia ex fidanzata, sono arrivato a Tel Aviv, ho preso una Jeep in affitto. Era l'ultima che avevano, quindi era una Lada Niva, in realtà era un, diciamo, un mezzo. Cioè, non una Jeep qualunque, una Lada, insomma. Sì, diciamo un fuoristrada, un Lada Niva. Sì. Non so se la conosci comunque. Come no, il papà di Bonini ce l'ha avuto per anni, una Lada Niva, quindi. Una specie di attrezzo, diciamo una specie di Frankenstein meccanico. Sì, ok. E niente, siamo partiti con questa macchina. Allora, la prima cosa che abbiamo preso, diciamo così, a Roma, una smaltita, è quando siamo fermati a fare benzina, perché davanti a noi si è fermato un altro fuoristrada molto più grosso, nero, da cui sono scesi quattro tizi che erano armati, due con gli AK-47 e due con gli M16. Che insomma, io ho pensato per un attimo che era finita. Certo, che non è proprio così normale neanche in Israele, ok. E poi è successo qualcos'altro? No, sicurezza. Ah, ok. E poi niente, mentre andavamo giù ai Lat, si passa per il deserto del Negev. Lì a un certo punto in lontananza ho visto carri armati abbattuti, camion così abbandonati nel deserto. Ovviamente il fascino mi ha attirato in quel posto, dove lì probabilmente c'era stato uno scontro della guerra del Kippur. Sì. E quindi erano queste carcasse, sono avvicinato, l'ho guardato e così, non sapendo bene che in realtà questa macchina, se la lasciavi spinta per un bel po' di tempo, in realtà si inseriva un antifurto nella Lada Niva. Sì, la Lada Niva era un antifurto e questi non mi avevano detto che c'era questo antifurto. Quindi quando io, dopo un'oretta che stavo lì a fare le foto, a guardare tutti questi mezzi così abbandonati, distrutti, eccetera, eccetera, sono risalito in macchina, la macchina non partiva. Va bene. Cioè, girava la chiave, il motorino ovviamente girava, ma la macchina non si metteva in moto. Francesco, guarda, starei ore veramente a sentirti, però purtroppo devo salutarti perché abbiamo praticamente finito. C'era un altro messaggio. Eccolo qua, questo mi piaceva da morire. Io e un'amica partiti da Venezia in auto, Siviglia. Io guido da Venezia fino a Cannes, poi facciamo cambio e inizio a dormire a Lione. Lei sbaglia strada e mi risveglio quasi a Parigi. Lei allo svincolo a Lione aveva sbagliato strada, aveva puntato a nord. Giulio, storie più o meno come queste, ma abbiamo chiuso anche oggi. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Fabio Cantadore, a Margherita Ina e a Federico Bernocchi. La storia di oggi era la storia di Linda, parlava di inconvenienti di viaggio. Quella di domani è la storia di Antonio e parla dell'amore romantico. Per festeggiare cominciò a spruzzarmi acqua negli occhi con il suo anello fatato. Incoraggiato da questo gesto per me dolcissimo, continuai ad adorarla per il resto del pomeriggio e a servirle ettolitri di aranciata. Ero pazzo di lei.